pista per Pallaspicchi. Finalmente siamo del campionato che sta per partire. A questo punto sorprese non ce ne saranno più, si parte a 16 squadre, si parte con Siena ovviamente squadra da battere, squadra che sembra imbattibile. Cosa dici, Flavio? Beh, sicuramente Siena parte come minimo come grande favorita. Diciamo che la cosa che impressiona della squadra di Pianigiani è che dove potevano intervenire per migliorarla ulteriormente sono riusciti a farlo, prendendo Domer Kant come sostituto di un giocatore che ricordiamo molto importante come Thornton, e prendendo Finlay, che è stata una delle rivelazioni della scorsa stagione, per sostituire Ilievski, che per la verità non aveva fatto granché bene a Siena l'anno scorso. Dunque, terzo giro di campo per Pallaspicchi in questa stagione, la preparazione atletica è finita, il campionato sta per cominciare e allora arriva finalmente il coach. Dan Peterson, buongiorno. Amici sportivi, buongiorno a tutti. Grazie per essere tornato, grazie per essere di nuovo con noi, coach, per questa nuova stagione. Ero lì in America per 3 giorni e adesso sono tornata proprio ieri e quindi sono qua e piacere sentire voi a Pallaspicchi, ok? Ciao a tutti. Coach, cosa si dice, già che sei stato in America fino a poche ore fa, cosa si dice dall'altra parte dell'oceano? Well, innanzitutto nell'NBA Greg Oden è tornato a giocare, ero a Portland, proprio a Portland dove gioca Greg Oden, e sono tutti entusiasti perché lui torna a giocare dopo un anno fuori per quel grave infortunio al ginocchio, e poi sono anche molto gasati tutti a Portland per Rudy Fernandez, ragazzo da Juventud Badalona che sta andando da Dio a dir poco, ha fatto una grande finale olimpica per la Spagna. Adesso sta andando proprio da Dio e ovviamente Bargnani, i primi due amichevoli, sta giocando con molta costanza, media di 15 punti, media di 8 rimbalzi, quello che lui non faceva prima lo sta facendo adesso. Bellinelli ha anche fatto una partita in quintetta base per Golden State e ovviamente tutti preoccupati per la schiena di Danilo Gallo. Gallinari che non è rientrato. Coach, invece il tuo pensiero su questa folle estate del basket italiano? Well, innanzitutto è chiaro che stanno soffrendo sia Lega che Federazione, perché c'era anche una battaglia in Lega recentemente sulla presidenza, però evidentemente qualcuno ha detto che non possiamo cambiare presidente, sarebbe il quarto presidente nello spazio di 18 mesi, cioè la gente ci dà dei matti, ok? Quindi Corrado resta al suo posto, però ovviamente è un posto non tranquillo per niente, perché è sotto tiro da tutti quanti, sotto fuoco, molti non c'è come una volta un grande spirito di stare insieme, un gruppo, eccetera. Cioè, quando io ho parlato con l'avvocato Porelli, che era mio capo a Bologna e poi vicepresidente della Lega, ho chiesto a lui non tanto tempo fa: Porelli, qual è stato il segreto del successo della Lega negli anni 80 quando tu eri lì come vicepresidente? Coach, il voler stare insieme. Sembra una banalità, invece lui ha detto tutto. E quindi è difficile oggi con gli interessi avere questa collaborazione, questa cooperazione fra di tutti, eccetera. E questo è un grave problema. Tutti vedono l'interesse personale e non vedono spesso, diciamo, come diciamo noi in America, la fotografia grande. Coach, altra svolta, Dino Meneghin, commissario della Federbasket. Qui è un altro discorso per la federazione, che è chiaro che c'è Fausto Maifredi, cioè, ovviamente è stato spostato, io ho detto l'altro ieri, cercando di cercare una parola che copriva tutto, per motivi amministrativi, cioè, fra virgolette l'ho messo per dire che non trovavano altri termini, invece erano chiaramente motivi politici, c'è stata un colpo di stato politico e lui è andato fuori. È chiaro che Maifredi doveva rispondere per lo stato attuale nel basket italiano, cioè i risultati negativi della nazionale di recente, cioè proprio, e anche se non è direttamente colpa sua, il fallimento di Napoli e i problemi di Capo d'Orlando, che sono anche in tribunale ancora loro. Quindi è chiaro chi è al vertice alla fine della fiera, cioè deve pagare il conto per tutti quando esce dal ristorante, come si dice, e Maifredi ha pagato. Meneghin adesso, infatti ho parlato con Dino 2 secondi oggi, non per questo ma per un'altra cosa, avevo bisogno di una sua frase per un articolo, chiesto come va, e lui dice giorno per giorno lavoro veramente massiccio, meetings, riunioni, incontri, e lui, conosco Dino, lui vuole conoscere e capire tutto prima di agire. Io spero che lui aspetta prima. molto tempo prima di fare le prime mosse, questa sì. è la mia idea, per conoscere tutti, quello che gli serve, quello che non gli serve, chi vale, chi non vale, eccetera. Quindi è un momento difficile per lui come per la pallacanestro, perché come andrà a finire? Dino rimane dopo l'elezione a febbraio o marzo, o viene un altro? Cosa la situazione, chi sarà quello che viene per lui? Abbiamo già vissuto questo. Sì, sì. Quello che abbiamo detto tante volte è che il grande del lavoro, il nocciolo del lavoro di Dino Meneghin sarà quello di riformare un sistema elettorale che così non va più bene. Certo è che insomma hai un ex giocatore alla guida della Federbasket, almeno questo della Federbasket nel momento più delicato che c'è, un altro alla guida dei New York Knicks, insomma quella tua squadra continua a tornare. Yeah, Mike D'Antoni adesso deve sapere che la primissima partita amichevole hanno giocato New York a Toronto contro Bargnani, ha vinto Toronto per 2 punti, 113-111, però New York con tante assenze, compreso Gallinari e altri, con 6 o 7 giocatori sulla lista di infortuni, ha fatto una buona partita, anche Marbury ha fatto 15 punti, quindi hanno giocato tutti, Mike ha fatto giocare tutti, forse perché vuole vendere Marbury, vuole vendere Randolph, eccetera, però tutti hanno detto che c'è stato un buonissimo impegno, una buona partita, sai, in trasferta, la prima, Toronto è la seconda partita per loro, tutta la differenza del mondo, poi secondo me Toronto è una bella squadra quest'anno. Mm. Quindi per Mike è stato un esordio, non hanno vinto, però hanno fatto una bella figura e si vedono i progressi sotto Mike D'Antoni, si vede la sua mano. Sì, si vede finalmente una squadra nella grande mela, forse, vediamo. 800 24 00 24, numero verde per se volete parlare con noi, messaggi 349 238 6666. C'è chi domanda se Dante Calabria, che è andato a Soresina in Lega 2, è ancora integro, qualche dubbio ce l'ho, ma vedremo. Altri che domandano, ma il Gallo come sta per davvero? Abbiamo bisogno di essere tranquillizzati come con le borse, scrive Marcello da Modena. Se sì, siamo tranquilli come con le borse, no? Un momentaccio. Sì, Danilo Gallinari, come sta veramente? Insomma, dicono, ok, non sono super informato su questo, anche se il padre mi fa una SMS ogni tanto, un'email, ci siamo incontrati, però ogni volta che sento una diagnosi di questa situazione, prima è una sciatica, adesso discopatia, poi uno dice le dita dei piedi si piegano come deformazione, e questa è l'influenza della schiena, cioè non sono mai aggiornato su questo, perché ogni volta che sento c'è una diagnosi abbastanza nuova, se mi spiego, quindi sì, sì. Tutto lì, però Danilo sta correndo adesso, fa allenamenti blandi come la squadra, diciamo lavoro specifico, differenziato come si dice in italiano, e non sappiamo se lui giocherà l'apertura della stagione, che è il 29 ottobre a Madison Square Garden contro Miami, non lo sappiamo, è 50%, io dico 55 non gioca e 45 gioca, cioè più no che sì, però io spero solamente che questa non sia una cosa grave che richiede un intervento chirurgico che lo metta a capo operando, io prego solamente questo, okay? Quindi spero in Dio che lui potrà giocare, perché serve a lui e credimi serve a Knickerbocker, loro sono certo. Molto entusiasti, io sono molto amico del presidente Donnie Walsh e Donnie è molto entusiasta e lui mi ha detto, Dan, noi abbiamo bisogno di Danilo, non è che loro sperino che lui sia una cosa, loro hanno bisogno del suo tiro, della sua versatilità, loro contano su di lui. Coach, tornando invece dalle nostre parti, è facile pronosticare Siena grande favorito in campionato, perché io dicevo in apertura, non so se sei d'accordo, che dove poteva rafforzarsi lo ha fatto. Chi può essere concorrente di Siena? Sì, Siena grande favorita, che si è rafforzata sì. Dove poteva farlo, cioè prendendo Domerkant al posto di Thornton e Finlay sì. Al posto di Ilievski. Ma poi soprattutto la grande questo. Forza di aver confermato un nocciolo. Che Siena gioca in Eurolega, e questo è un dispendio di energia notevole, lo fanno anche altre squadre, tanto per dire. Però Siena è quello che è andato più avanti l'anno scorso, al Final Four, eccetera. E poi... dopo 3 anni, cioè, hanno vantaggio di essere una squadra forte, proprio tutti collodati, tutti giocano insieme, stesso allenatore in Pianigiani, stesso general manager con Minucci, stesso diciamo nucleo di giocatori che hanno una squadra da diversi anni. Questo è un grande vantaggio. Però secondo me le altre squadre, le due bolognesi, forte alla Fortitudo, sia già forte, molto bravo, Boykins e Koponen alla Virtus, a Benetton Treviso dopo due anni disastrosi, travagliati, adesso sarà più tranquillo. Roma ha preso tutti, ok, già hanno preso Gigli, tutti quanti. Roma si sta mettendo forte. Milano, tutti dicono, quegli esperti di Milano, che gli manca un pivot per essere veramente competitivo, però hanno messo insieme una squadra diciamo abbastanza completa. Poi io non scontrerei mai fuori Pesaro, quindi io, secondo me ci sarà più concorrenza. Io dico che giocano 30, adesso quest'anno 30 partite, se ovviamente non vincono più di 30 quest'anno, però io dico che vincere più di 25 per loro sarà più difficile quest'anno, hai capito? Di evitare la quinta sconfitta sarà molto più difficile per Siena quest'anno, più concorrenza, più squadre forti, più trasferte difficili, e vedo un livellamento che comincia appena a crescere, quindi più concorrenza contro Siena, però Siena rimane favorita. Rimane favorita naturalmente. Tu hai parlato di Milano e del lungo che manca, poi ti faccio una domanda su questo argomento. Prima voglio sentire un ascoltatore, primo di oggi Alessandro, provincia di Verona, buongiorno. Sì, buongiorno a voi e buongiorno a Coach Peterson, che diciamo conosco personalmente ed è sempre un grandissimo piacere sentire le sue parole. E, niente, volevo farvi una domanda, visto che io assisto dall'interno come direttamente interessato ai lavori, a quella che è la situazione della pallacanestro in questo momento. Volevo dire anche da voi, da Coach Peterson, se avevate una soluzione o comunque un qualche soluzione appunto per risollevare quella che è la pallacanestro italiana in questo momento, quali potrebbero essere i punti su cui eventualmente andare a lavorare? Coach. Di tutto, io non è la prima volta che dico questo qui su Palaspeaky, il primo problema che deve affrontare la pallacanestro italiana è la questione degli impianti. Okay, cioè, non si può avere nella Serie A, quando c'erano 18 squadre, 9 impianti con meno di 5.000 posti. Il minimo adesso per la Serie A deve essere, se tu non hai un impianto di almeno 5.000 posti, tu non puoi giocare in Serie A. Tutto lì, ok? Tutto lì. Quindi devono aumentare queste qui e più impianti di 10.000, perché adesso la Virtus ha rifatto il loro palazzo, stupendo, se riuscite a vedere. Siena va per costruire un impianto di 10.000, bellissimo. Armani dicono a Milano che comprerà o gestirà Palalido, e spero che loro sulle cene dei Palalido facciano un impianto di, dicono 5.000, ma fai 10.000, tanto per dire, perché l'Eurolega dal 2-9 settembre, fra un anno, dicono se vuoi giocare in Eurolega deve avere posto di 10.000. In Italia c'è solamente adesso Milano 11.000, Roma 11.000, Pesaro 11.000, e gli altri non ce l'hanno. Bologna può andare a questo qui, sì. Treviso può andare, a Trieste che è 8.700, possono anche allargare, eccetera. Però prima questione impianti, perché lo sponsor dice ok, io voglio sponsorizzare voi, quante persone vengono a vedere? 2.500. No, dicono di no. Tu dici vengono 10.000 a vederci giocare, dicono sì, dicono i rotatori sul campo che li vedono, la televisione che li vuole vedere, e tutto nasce dall'impianto dove gioca le partite. L'NBA dice ogni anno non vogliamo giocare in Europa perché l'Europa non ha impianti di 20.000 posti, 25.000 posti adeguati a livello dell'NBA. Dove li trova? Uno a Londra, O2 Arena, e poi il resto sai dove sono? Cina, sì. Cina, sì, e sì, quindi sì. L'Italia è molto indietro. Della Spagna 18 squadre, nessuna squadra ha un impianto di meno di 5.000 posti. Cominciamo a fare i 5.000 posti, andiamo poi a 10, questa è la mia idea, impianti prima di tutto. Grazie Coach, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao ragazzi, amici sportivi, ciao a tutti. Grazie Coach Peterson, che è dunque tornato di impianti. Tra l'altro parla in un'interessante intervista anche Toti, no Flavio? Oggi sì, sulla sì, stampa c'è questa intervista del numero uno, del boss della Lottomatica, che parla di questa crisi finanziaria che sta mettendo in ginocchio tutti, compreso lo sport. E dice cose sensate, dice che anche la pallacanestro dovrà cercare di abituarsi ad avere meno stelle per cercare di programmare e di avere comunque un futuro dal punto di vista sportivo, perché altrimenti si rischia davvero di fare una brutta fine. Quindi speriamo che i club prendano anche questa questa strada, abbiamo una ventina di secondi prima del traffico, e io vorrei dire questo, che una delle strade per migliorare la pallacanestro italiana è non ricommettere l'errore di tornare a 18 squadre. Sì, sì. Perché una volta che a 16 ci siamo rimasti per... traumaticamente. Esatto, rimaniamoci, perché vuol dire che queste 16 squadre dovranno meritarsi il fatto di stare in Serie A, e soprattutto dovranno dimostrare di essere solide anche dal punto di vista economico, perché la figura non è stata granché. No, no, no, i rami secchi vanno tagliati. Questo a livello italiano e a livello europeo, come è già stato detto, anche in ambienti diversi da quello della pallacanestro. Ad esempio, sono parole dell'UEFA. Palla spicchi. In arrivo, io penso, un ospite graditissimo. Non so se è già in linea. È il coach campione d'Italia, Simone Pianigiani. Ciao, buongiorno, Simone. Buongiorno a tutti. Parlavamo con Coach Peterson della tua scena, difficile non darla per favorita anche in questa stagione, poi discutiamo sul numero delle partite, come tu dici oggi in un'intervista sulla Gazzetta, sarà difficile perderne poche come l'anno scorso. Senti Simone, siano un po' come l'Inter, se mi permetti, obiettivo Europa, no? Anche se ogni persona realista e di buon senso sa che in Europa basta sbagliare non una partita ma un tempo, forse soltanto un quarto, per perdere tutto. Sì, sicuramente. Guarda, io credo che non possiamo, in stagioni così lunghe e così dure come sarà questa, su tutti i fronti, per il rafforzamento che c'è stato massiccio sia in Italia sia soprattutto in Europa, così programmare. Noi possiamo solo cercare di pensare a noi stessi, di tenere e ripartire da uno spirito giusto, da una mentalità, da un'etica di lavoro, e poi cercare di evolversi ancora in quelle che sono le possibilità del nostro gioco, pensare a noi stessi con grande umiltà, con rispetto di tutti, consapevoli però con tutti di volersela giocare. In Europa fare programmi poi è difficilissimo, nessuno, nemmeno il Panathinaikos, può pensare realisticamente di avere sempre l'obiettivo di andare alle Final Four, proprio perché la formula, la forza di tantissime squadre che si giocano poi in una serie di spareggi a primavera possono darti questo tipo di certezza. L'obiettivo è più ideale, diciamo, che reale, però sicuramente di realistico c'è il mantenere la credibilità che ci siamo guadagnati lo scorso anno in Europa, questo sì. E poi quando fai una competizione che si traduce nel giocare le singole partite, non è che nel basket puoi giocare andando lì e pensare che hai già perso, anzi. Io dicevo in apertura di questa trasmissione che voi vi siete rafforzati come meglio non potevate, e soprattutto con un innesto di un giocatore che a me piace tantissimo come Domerkant, che vi può dare tante altre varianti e variabili tattiche, magari addirittura più di quante non ve ne offriva Thornton, perché sono due tipi di giocatori diversi. Io aggiungerei, Flavio, che invece il grande colpo di mercato di Siena è certamente Domerkant, ma la prova di forza di Siena è nell'aver tenuto tutti i suoi grandi protagonisti, a cominciare da Terrell McIntyre. Sì, sono d'accordo su entrambe le cose. Sicuramente lo scoglio più duro era quello di tenere così il cuore, l'ossatura di questa squadra, proprio per non dover ricominciare da capo, ma costruire su delle basi di conoscenza reciproca e, come dicevo, anche di etica di lavoro. Domerkant, così come Finlay, in generale ci ampliano un ventaglio di opzioni, proprio perché hanno caratteristiche diverse dai loro predecessori, e come dicevo prima, noi sicuramente abbiamo bisogno di evolversi nel nostro gioco, vogliamo fare delle cose in più o diverse. L'anno scorso, nel cuore della stagione, nei quattro mesi e mezza della seconda parte dell'anno, non abbiamo avuto nemmeno Kaukenas, speriamo quest'anno gli infortuni grossi ci lasciano in pace, e quindi vorremmo fare cose diverse. Stiamo un po' spostando, utilizzando anche Lavrinovic non più solo da numero 5 tattico come l'anno scorso, ma anche spostarlo un po' in ala forte, perché questo insomma può cambiare delle cose, può aumentare un po' anche la nostra stazza in Europa. Quindi insomma credo che sia sulla conferma dei vecchi, diciamo così, che nell'innesto dei nuovi siamo contenti, abbiamo una squadra che può essere duttile, avere molte possibilità, starà a noi sfruttarle appieno lavorando bene per tutti questi mesi. Coach, oggi leggevo un'intervista che ho prima citato a Totti, patron di Roma. Ecco, Siena è un modello per tutti, no? Nella pallacanestro, ma non solo nella pallacanestro, un modello di gestione di squadra, di gruppo, di società, eccetera. Totti parla del basket, parla di area di crisi, di venti di crisi, forse dovremmo rinunciare alle stelle, forse dovremmo tagliare se non ci saranno più gli sponsor. Insomma, da uomo di sport, senti il vento della crisi in arrivo nello sport proprio, nel basket certamente, ma nello sport in generale? Ma guarda, indubbiamente non possiamo rimanere insensibili a quello che succede nella nostra società, perché è chiaro che momenti come questo vanno a riflettersi su tutti i campi, e a maggior ragione insomma su campi del nostro, che vivono di sponsorizzazioni, di aziende che magari se vanno a gonfie vele, hanno magari più possibilità e più voglia di investire anche nel mondo dello sport. Però credo che noi nella pallacanestro, e io continuo a dirlo, dobbiamo continuare a vedere aspetti positivi, perché questo è uno sport che tira molto, che vedo grande entusiasmo nelle giovani generazioni, grandi interessi per la pallacanestro. Vedo che i grandi campioni quest'anno in Italia sono continuati ad arrivare, le squadre di prima fascia si sono rinforzate, e credo che la direzione debba essere proprio quella di avere regole certe, fare sì che le club possano veramente strutturarsi, solidificarsi, avere programmi e progettualità, e allora poi avere una continuità del tempo e superare anche le congiunture negative che possono esserci all'interno di un'economia poi nazionale, di un paese eccetera, ma di guardare al futuro con ottimismo. Credo che questo è il passo che la pallacanestro debba fare. Io ho fiducia che, come a Siena in questo momento sta pensando e sta per realizzare un nuovo grande palasport, impianti e strutture che siano proprio di supporto al club stesso, penso che sia la strada a seguire, che possono seguire molte altre realtà, per cui insomma credo che la pallacanestro uscirà anche da questo momento più forte di prima. Simone, vorrei sottoporti la domanda che fa un ascoltatore via SMS. Nicola scrive: vorrei chiedere a Pianigiani perché non sono andati alla ricerca di un altro lungo, visto che negli esterni secondo me c'era già abbondanza, scrive questo ascoltatore. No, scusami che ho sentito malissimo, puoi ripetermi? Diceva, questo ascoltatore ti chiedeva perché e se non siete andati alla ricerca anche di un altro lungo, visto che secondo lui negli esterni c'era già grande abbondanza. Ma poi, se posso aggiungere una cosa, Simone, così diamo due risposte in una, volevo chiedo prima a Coach Peterson, lo chiedo a te da allenatore: con i 2,16 di Brezec che è andato a Roma, sta tornando la moda del centrone? Perché ne vediamo diversi nelle squadre italiane quest'anno. Ma allora, innanzitutto sono assolutamente d'accordo che i centri servano, siano determinanti, e poi in assoluto la stazza, cioè è chiaro che più sale il livello e vediamo appunto in Eurolega, e più che la stazza è una condizione determinante, una caratteristica delle squadre che vogliono arrivare in fondo. Però sai, devi fare un discorso su quali sono quelli disponibili, quanto costano, quanto sono raggiungibili, e quindi quanto merita avere questo tipo di situazione di investimento. Io credo che noi alla fine, un Lorbeck fa sicuramente gol a tutti, ma lo prende il Cesca, cioè il Vujicic dal Maccabi si muove per cifre pazzesche all'Olympiacos. Allora poi alla fine quanti sono e quanto ti distrugge il budget per prendere pochi giocatori che in quei ruoli lì possono fare la differenza. Noi lo scorso anno è vero che eravamo in assoluto forse la squadra tra, in Europa tra le prime che aveva meno stazza, però abbiamo sopperito con atletismo, con organizzazione, siamo stati per tutta la stagione la miglior difesa insieme al CSKA dell'Eurolega, siamo stati abbondantemente i primi nei recuperi e dobbiamo cercare di sopperire appunto con altre armi. Credo che questo sia una necessità e credo che sia giusto vedere poi l'economia globale della squadra quando la vai a costruire, per cui non avremo tutta la stazza del mondo, però abbiamo aggiunto un giovane italiano che è il nostro Lechthaler, che deve pian piano crescere dandoci anche dei minuti di solidità, quindi ci abbiamo qualcosa in più lì, e il resto insomma vedremo di farlo funzionare. Io credo che nell'economia globale della squadra alla fine siano state fatte le scelte giuste, poi è chiaro, se tu potessi fare la squadra ideale, probabilmente anche noi ma torniamo al discorso di prima, quello del modello gestionale di Siena. È chiaro che i sogni sono sogni, qualche volta si realizzano, qualche volta no. Coach, grazie, buon lavoro, in bocca al lupo. A voi e presto, Capi Lupo. Grazie a Simone Pianeggiani, coach bicampione d'Italia. Palla spicchi. Forse era meglio non sentirla. Cimitero. Va leggermente meglio Milano. Va leggermente meglio Milano e perde oltre il 5%. Vabbè, dunque facciamo gli onori di casa a un ospite imprevisto e per questo ancora più gradito, come Roberto Galli, che è l'allenatore che ha riportato nel basket che conta, che ha riportato in Serie A un nome storico, Serie A femminile, il GEAS Sesto San Giovanni. Insomma, è stato un po' l'anno dei grandi ritorni, poi ne parliamo, anche Venezia in Lega 2, Brindisi, grandi del passato che tornano, non può che far piacere. Coach, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, buongiorno. Grazie davvero per esserci venuto a trovare. Beh, ho sentito Peterson, ho sentito Pianeggiani, ho detto beh, allora telefono. Bravissimo. Di loro non potevo non telefonare, anche perché Peterson alla nostra presentazione dello sponsor ha detto che se io ho aspettato 18 anni a rientrare, lui poteva rientrare anche lui ad allenare, per cui siamo più o meno a distanza di questo è stato il periodo che mi ha tenuto lontano dalle panchine. Rientro col botto se ce n'è uno, Ma diciamo è stata veramente una combinazione incredibile, perché io ho cominciato l'anno veramente a malapena, conoscevo le mie giocatrici, non conoscevo le avversarie, ed è stato tutto un crescendo con anche delle vicende abbastanza anche drammatiche che hanno vissuto la nostra società, ma che hanno rinsaldato diciamo la forza morale della squadra, che veramente ha dato non il 100%, qualcosa in più, perché sinceramente non eravamo la squadra più forte, ma sono verificate quelle cose che succedono qualche volta nel mondo dello sport, ed è la cosa bella dello sport quando succedono questi eventi, quando la squadra non la più forte riesce a vincere grazie a dei valori morali di voglia, di determinazione. Ecco, magari ricordiamolo per i nostri ascoltatori, voi avete subito la perdita tragica dell'anima del GEAS, Natalino Carzaniga, insomma, e da quello siete riusciti a trarre la forza giusta per vincere questo campionato, per andare ai playoff. Tra l'altro, se non mi sbaglio, questo evento è accaduto in concomitanza proprio di partite importanti per la vostra stagione, siete riusciti a reggere. Comitante con l'ultima giornata della stagione regolare, qui tre giorni dopo siamo entrati in campo per fare la prima partita di playoff. È chiaro che lì le reazioni possono essere due, cioè o si può mollare tutto, anche perché non era stata una squadra fatta e con l'obiettivo di salire per forza in A1, o ci si poteva ricompattare in maniera eccezionale proprio per cercare di tirar fuori ancora di più e giocare anche nel segno, nella memoria di Natalino, che sicuramente meritava questo grande successo. Così è avvenuto, un po' di fortuna, abbiamo vinto due partite supplementari, ci vuole anche quella per vincere un campionato, diciamo la fortuna è stata dalla nostra parte, ma insomma ce la siamo meritata tutta. Ecco, tra l'altro poi vi siete trovati ad affrontare non poche difficoltà per allestire la squadra per quest'anno, o sto sbagliando? No, non stai sbagliando, diciamo che la squadra, la società più che la squadra era tecnicamente era tra virgolette finita, perché Natalino Carzaniga era effettivamente il presidente e unico dirigente responsabile factotum, era veramente la società, per cui trovarsi senza di lui e con in mano un diritto di A1 è stato un momento difficile. Bisogna dire che i nuovi dirigenti che sono entrati, il nuovo presidente Mario Mazzoleni in testa, ha compiuto un piccolo miracolo, perché in 2 mesi ho avuto carta bianca per poter fare la squadra, perché inizialmente ho avuto anche il ruolo di general manager, siamo partiti, penso di aver allestito una squadra interessante da un punto di vista anche tecnico, agonistico, in pochissimo tempo, e siamo riusciti. Questo è un aereo sì, che parte. È un aereo, spieghiamo anche perché c'è questo aereo, perché molto probabilmente, esatto, Roberto Galli è in partenza per Roma, visto, esatto, che la pallacanestro femminile, sono all'aeroporto. Esatto, visto che la pallacanestro femminile, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, aprirà il campionato con due giorni tra sabato e domenica, in cui tutte le gare si giocheranno a Roma. Concentramento, quest'idea molto interessante, coach. Sì, devo dire, un'idea interessante, chiaramente per me è la prima esperienza. Stasera ci sarà una presentazione di gala con tutte le giocatrici, le squadre presenti, per cui sarà sicuramente un evento molto bello, avremo tutti la possibilità di vederci uno con l'altro, di richiamare pubblico, decisamente è un'idea secondo me molto valida. Quest'anno è un po' più rischioso degli altri anni, perché giochiamo per la prima volta non in una dove c'è una squadra di casa, per cui giochiamo tutti in campo neutro, sì, più giusto da un punto di vista sportivo, chiaramente un po' più rischioso dal punto di vista del marketing e della promozione. Tireremo le somme lunedì sera. Coach, in bocca al lupo grazie mille per questa ancora occasione di parlare di basket femminile. Io sono un amante del basket femminile, ma molto volentieri, anche perché abbiamo Schio che è regina d'Italia ed Europa, quindi certamente avremo ancora occasione di sentirci. Opening day, ricordo, domani inizia il campionato numero 78, ripeto, concentramento a Roma di tutte le squadre, si comincia domani alle 15:30, prima partita del campionato con Pulcomense, Jazz con Viterbo, e poi tra sabato e domenica giocano tutte lì. Altro ascoltatore, Marco da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io avrei piacere di sapere la vostra opinione su quello che è stato il mercato di Rieti, su come vedete Rieti come squadra quest'anno, e un attimino sull'allenatore di Nolardo, visto che io sono di Milano e ho un ottimo ricordo, mi sembra che anche lì, nonostante la squadra stia facendo bene, ecco. Sì, sta facendo. Lino Lardo, secondo me, è un grande allenatore. È un grande allenatore. Il fatto di essere riuscito a trattenerlo, credo che per Rieti rappresenti già una mezza garanzia. Quanto al resto, siamo nel campo delle ipotesi, no? Perché anche in questo caso Rieti, squadra molto nuova. Conosciamo Patrizio Prato, che è un ritorno. Conosciamo Pervis Pasco, che l'anno scorso ha giocato sì, a Pesaro. Tra l'altro è un ottimo giocatore perché fa dell'esplosività, della grande energia, le sue doti migliori. Non dobbiamo dimenticare che Rieti ha avuto anche poco tempo per fare la squadra, c'è stata un'estate abbastanza travagliata anche quella di Rieti, si è poi riusciti appunto ad allestire la formazione. Diciamo che comunque la vera garanzia è proprio Lino Lardo, nel senso che se c'è un allenatore esperto, c'è un allenatore che può dare qualcosa in più a questa squadra, è proprio lui, che ha avuto anche, a mio modo di vedere, non so come la pensi tu, il coraggio da una parte e anche la riconoscenza dall'altra di continuare questo progetto, quando magari avrebbe anche potuto prendere in considerazione altre situazioni viste le difficoltà. Sì, d'accordissimo Flavio, d'accordissimo, e speriamo che insomma Presidente Papalia abbia messo a posto definitivamente qualche problemuccio che l'anno scorso c'è stato a Rieti. Abbiamo ancora un ascoltatore e un minuto di tempo. Luca, provincia Reggio Emilia, buongiorno. Sì, innanzitutto volevo farvi complimenti per la trasmissione. Grazie. E volevo un vostro parere sulla squadra di Reggio Emilia, e in particolare sul suo allenatore, sul progetto comunque basato sui giovani del vivaio, La seconda cosa, se aveva qualche chance per la promozione. Ah, io credo proprio di sì. Reggio Emilia è una squadra che a me piace molto, ma in generale, tra poco ne parliamo, subito dopo il traffico, entriamo in argomento Lega 2 con tante cose da dirci. Marcelletti è il professore, no? L'hanno sempre chiamato. La squadra è competitiva, l'idea giovani è quella giusta ed è quella che deve, secondo me, magari col tempo, però in Lega 2, giovani e italiani diventare non l'eccezione ma la regola fissa, Flavio. Assolutamente, tra l'altro ha fatto subito bene Reggio Emilia la prima partita contro una squadra non facile come Venezia, una vittoria larga. Chiaro che c'è tantissima curiosità attorno al nome di Nicolò Melli, che è stato addirittura oggetto del desiderio dell'Armani Milano in estate. Ci sono tantissimi giocatori interessanti, per esempio Infante, che ha fatto parte della squadra di Recalcati, che ha sfiorato la qualificazione diretta ai prossimi europei. Infante alla prima partita 16 punti e 10 rimbalzi con 23 di valutazione. Se il buongiorno si vede dal mattino, direi che a Reggio Emilia possono stare abbastanza tranquilli. Reggio Emilia, lo ricordiamo, che andrà a giocare contro Pavia, di cui abbiamo parlato settimana scorsa. Altro progetto basato sui giovani, su un allenatore che ha lavorato tanto nelle minori, ne abbiamo parlato venerdì scorso, dunque sarà certamente una partita interessante. Palla spicchi. Come promesso, rimaniamo in argomento Lega 2, argomento introdotto dal nostro ascoltatore di Reggio Emilia. Ne ho un altro che scrive un messaggio interessante che ora leggerò, e sarà anche la prima considerazione che rivolgerò al nostro ospite, cioè il commissioner, mi piace chiamarlo così, della Lega 2, Valentino Renzi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Io parto dalla domanda di Marco da Casalgrande, provincia di Reggio Emilia, che mi scrive questo. Io sono tifoso di Reggio Emilia, ma credo che la Lega 2 non abbia senso nel nostro professionismo italiano, troppe squadre. Ma questo è un tema antico. Sì. Il discorso è che questa Lega, quando è nata nel 2001, era stata proprio partorita per farla morire. Poi invece con gli anni ha dimostrato una sua vitalità, una sua forza, una presenza di pubblico continua e costante, che oggi sfiora le 2400 unità di media per partite. E quindi, che secondo me, poi per un motivo che le spiego, secondo me questa Lega può diventare la chiave del nostro basket, la pietra angolare del nostro basket. Ma prima le voglio chiedere un'altra cosa, sempre in argomento. Visto che c'è una Serie B del calcio sull'orlo della recessione, come sappiamo bene, leggiamo in questi giorni, come sta economicamente la Lega 2? Ma noi stiamo abbastanza bene, lo dico anche se poi in occasione della presentazione del campionato ho fatto un riferimento purtroppo che si avvererà, nel senso che nei prossimi due anni noi affronteremo una crisi economica molto importante che difficilmente non ci investirà, e quindi dobbiamo essere pronti. Per ritornare al discorso del tifoso di Reggio Emilia, è chiaro che noi dobbiamo essere attenti a monitorare tutto e a rivedere se necessario queste situazioni, ma oggi in linea generale posso affermare che le nostre società fanno sempre dei passi abbastanza misurati. È chiaro che questi sistemi non sono sistemi che producono reddito, ma producono delle perdite contenute, anche perché poi nella realtà nessuno ha né i sussidi dei diritti televisivi né la cosiddetta mutualità del calcio. Senta Presidente, dal punto di vista tecnico, diceva Carlo prima, io anticipo un po', Carlo, la tua domanda, me lo consentirai. Come no? La Lega 2 potrebbe diventare molto importante per la pallacanestro italiana, perché si stanno cominciando a intravedere, come diceva l'ascoltatore che è intervenuto prima, progetti tipo quello di Reggio Emilia, lo stesso di Pavia, di altre squadre che comunque stanno puntando moltissimo sui giocatori giovani e soprattutto sui giocatori italiani. Potrebbe essere questa la chiave di rinascita della pallacanestro italiana, cioè partendo dalla Lega 2 per portare dei giocatori praticamente già finiti al massimo campionato. Ma io credo, è quello che appunto l'argomento che volevo approfondire, l'importanza strategica nel futuro della pallacanestro italiana di questa Lega, perché I have a dream, immagino, sogno una Lega 2 con pochi stranieri, con tanti giovani italiani. Sarei per far valere, ma l'ho detto altre volte, la legge di mercato in Serie A, quindi senza star lì a fare i pasticci con gli italiani di formazione, eccetera, eccetera. legge di mercato, i comunitari, professionisti vengono a giocare se trovano spazio, gli italiani se sono competitivi come valore e come prezzo. Mentre in Lega 2, la Lega 2 può diventare anche in chiave azzurra la Lega italiana. Ma guardi, noi abbiamo riscontrato in queste ultime due stagioni una forte crescita dei giovani che vengono al nostro campionato e lo vedono proprio come trampolino di lancio. Questo è un aspetto molto positivo perché negli anni passati questi giovani non ci guardavano neanche minimamente, quindi un dato oggettivo è importante. L'altro dato è che le nostre società sono sempre più alla ricerca dei giovani e oggettivamente oggi i giovani disponibili giocano. Insieme a questo voglio dire c'è anche un altro aspetto che va sottolineato. È stata elaborata una riforma che è in atto, che riguarda la Lega Nazionale Dilettanti, che prevede a regime tra tre anni un campionato di Serie A dilettanti, che sarebbe per capirci la vecchia B d'eccellenza, che prevede nella sostanza un numero di 7 under 23. Ora, secondo me, queste situazioni vanno un po' rimodulate, riviste, però è chiaro che lo sviluppo futuro non può essere quello nostro di messaggio di invogliare i giovani che fanno questi campionati a venire nel nostro campionato per fare le esperienze che debbono fare, e poi ovviamente i più bravi utilizzeranno questo campionato come trampolino per il campionato maggiore. Certo, come diceva Flavio, è un processo che sta avvenendo quasi fisiologicamente. Parlavamo di Reggio Emilia, di Melli, di Infante, eccetera, eccetera. Parlavamo di Pavia, che ha un progetto fondato essenzialmente su italiani giovani che arrivano dalla B1, ma noto che questo è il trend della Lega 2, su questo trend bisogna insistere. È anche, Presidente, per chiudere, la Lega 2 in questa stagione dei grandi ritorni, no? Grandi ritorni per Sventure, Varese, grandi ritorni per Rinascite, Venezia, una Brindisi in cui c'è un entusiasmo colossale, praticamente non si può entrare al palazzetto, tutti abbonati e tutto esaurito ad ogni partita. Beh, questo è il segnale che dicevo prima di grande vitalità. Ovviamente noi in queste stagioni abbiamo avuto delle società, il nostro malgrado, importanti, la Virtus Bologna, la Scavolini Pesaro, quest'anno abbiamo la Cimberio di Varese, e quindi diciamo siamo un po' abituati a queste cose qui. Il nostro campionato è estremamente complesso, difficile, il ritorno nel settore professionistico di due realtà importanti, storiche, perché sia la Reier Venezia che Brindisi hanno masticato di basket in questi campionati tanto, e quindi sono piazze storiche che ritornano con un grande entusiasmo e con delle proprietà molto forti che vogliono guardare avanti. Grazie Presidente, buon lavoro. Buon lavoro a voi. Grazie al Presidente Valentino Reza, commissioner della Lega 2. C'è un ascoltatore che domanda, che chiede dove si gioca l'opening day della pallacanestro femminile. Sì, al Palasport di Viale Tiziano, c'è proprio una vera e propria maratona, si comincia domani alle 15.30, invece domenica la prima partita è alle 11, poi a seguire tutte le altre di giornata. Un paio di messaggi che chiedono, e li sintetizziamo in uno, le prospettive di Virtus Bologna e Armani Milano. Sono due squadre molto diverse. Io credo che Bologna possa essere la Bologna Virtus possa essere la vera rivelazione di questo campionato, perché è una squadra lunga e ben costruita. Sì, sì. Di Milano mi piace questa grande impronta italiana, e però devo ammettere che personalmente la vedo un tantino sotto queste sì, squadre di cui abbiamo parlato, Flavio. Cioè Montepaschi, Roma e le bolognese. Lo è, ma ho l'impressione per scelta precisa, cioè Milano è vero, è entrato Armani, qualcuno si aspettava subito una squadra da botto, no? Da Eurolega, con un top coach di livello europeo in panchina. È arrivato Bucchi, bravissimo, ma non è né Scariolo né Messina né uno di questi, né Obradovic. Magari qualcuno si aspettava giocatori dal grande nome, magari anche dal grande passato. Invece è una squadra di ambizione che punta sui giovani, ma non pronta per fare il botto da subito, insomma. Mentre io credo che, tornando invece alle due grandi protagoniste annunciate del prossimo campionato, cioè Siena e Lottomatica, quest'anno soprattutto la prima, ma anche Roma, non si possano esimere dal ritrovare una dimensione europea che l'anno scorso, soprattutto per la seconda, è mancata. Siena l'ha un po' buttata via all'ultimo, a qualche metro dal traguardo, mentre invece Roma prima, no? L'Eurolega di Roma l'anno scorso è stata davvero davvero brutta, e sicuramente quest'anno hanno anche le carte entrati in regola per migliorare, sì, in questo senso. Cioè, il discorso si faceva prima, mi fa molto ridere quando sento dire anche sul fronte calcistico, ma l'obiettivo principale è la Champions League o l'Eurolega. Sbagli un tempo, sbagli un quarto nella pallacanestro come ha fatto Siena l'anno scorso nella semifinale con il Maccabi, e se quello era il tuo obiettivo stagionale ti saluto. No, io sono d'accordo con te su, più che su Roma, sulla Virtus Bologna. Secondo me può diventare la marcatrice diretta di Siena, che francamente mi pare ancora immarcabile, però può diventare davvero seconda forza del campionato. Avremo tanto tempo per parlarne nelle prossime puntate di Palla Spicchi. Vi ricordo che domenica, dopo il GR delle 20, saremo qui a collegarci con i campi di Serie A per sapere come è andata la prima giornata di campionato. Grazie a Flavio Suardi, grazie a Gigi Borghi per il lavoro in redazione, a Peter Bescapè in regia. Ci sentiamo domani.